Ben arrivati nella massarda dei Dr. Pirates. Parleremo di Get Out, costato solo 5 milioni di dollari, ha fatto sfracelli negli Stati Uniti, diventando il caso cinematografico del 2017. È un film molto particolare, è a cavallo tra vari generi, è una commedia, è un horror, ma però ha anche elementi del thriller, del giallo, tutte queste cose le fa bene, con ironia. E si mescolano in un frullato equilibrato, non ci sono compartimenti stagni. Uno degli aspetti più interessanti e vincenti è rappresentato dalle premesse. Mi spiego meglio, parlando della trama. Allora, coppia interrazziale, lui nero, Chris, lei bianca, Rose. La ragazza decide di far conoscere il suo amato alla sua famiglia, bianchissima, che vive in Alabama, in un quartiere bianchissimo e benestante. Un po' di tensione c'è, ma lei assicura che andrà tutto ok. Arrivati si notano due cose: gli abitanti bianchi sono tutti accomodanti, molto accomodanti, forse troppo, sembrano i classici liberal americani super progressisti. Il padre di lei confesserà che Obama è stato il miglior presidente e lo vorrebbe ancora per la terza volta, se fosse possibile. Ci sono poi gli strampalati vecchietti che fanno domande assurde e imbarazzanti al protagonista nero, su stereotipi tipici che riguardano atletismo, sesso e così via. I pochi neri invece per lo più fanno parte della servitù e sono strani, è come se fossero posseduti da qualcosa, imbambolati. Sembrano coscienti del loro stato, ma c'è qualcosa che li frena, come se fossero posseduti da un alieno, per intenderci. Qualcosa non quadra, e come se non quadra. In questo contesto partirà tutta una trama fatta da indagini da parte di Chris e da parte di un suo amico, la macchietta della pellicola, che sembra stupido, ma che invece ha capito tutto, notevole quando andrà dalla polizia ad esporre la sua teoria. Ora, il film può essere visto sotto diversi punti di vista, è lodevole come mescoli perfettamente tanti aspetti così differenti, perché possiamo ridere con le sue battute stoccatine, ma possiamo anche sentire la tensione che si respira in America tra le differenti razze, che poi diventa un horror. Possiamo apprezzare le diverse citazioni cinematografiche e possiamo anche immergerci nella sua dimensione più horrorifica quando si palesa. Insomma, dal punto di vista concettuale della regia è veramente ben fatto, direi estremamente intelligente. Si vede che si rifà ai grandi classici come Rosemary Baby, E si vivono, L'invasione degli ultracorpi e molti altri. L'abilità è creare un qualcosa di plausibile date le premesse originali, e ci riesce. D'altro lato ci sono i significati di quello che vediamo, tutti capiscono che si riferisce alle tensioni razziali in America, ma si può scavare più a fondo. I bianchi rappresentati sono forse i bianchi liberal ipocriti, per cui viene trattato forse più quel razzismo accomodante da radical chic e non quello, per intenderci, da redneck incazzato. I neri invece, consci della loro situazione, sono comunque bloccati da uno stato mentale? Guardate, io personalmente l'ho apprezzato per il suo valore cinematografico, perché mi piace quando un film riesce ad essere originale, a utilizzare le lezioni di grandi classici in modo sapiente. Sono conscio che porta con sé tanti riferimenti alla società americana, ma a me basta il suo ottimo linguaggio cinematografico, anche se è negabile che parte della sua originalità sta appunto nel mischiare i classici stilemi dell'horror con i rapporti bianco-nero in America. È innegabile che vada a trattare argomenti sempre molto sentiti nella terra stelle strisce, ma lo fa in modo sorprendente, non ci saremmo mai aspettati un qualcosa del genere, evitando dunque certi polpettoni di retorica molto pesanti. Ritengo anche che è fuori dubbio che in terra americana verrà compreso di più, perché alla fine parla di loro. Ma come ho detto, è talmente ben congeniato, talmente ben fatto che lo possiamo apprezzare anche noi. Dietro a un prodotto del genere c'è ovviamente un grande amore e conoscenza per tanti classici della filmografia dell'horror. L'utilizzo magistrale in un contesto atipico è quello che di fatto rende la pellicola fresca e godibile. Chissà se potrà servire come esempio per una rinascita del cinema horror, che attualmente verte veramente in pessimo stato. Intanto ci godiamo questa pellicola. Buona visione!